Antonio, voto Antonio, voto Antonio, italiani! Voto Antonio, come la rete cambia la politica, di Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno e benvenuti a Voto Antonio, la trasmissione nella quale e con la quale ogni settimana cerchiamo di raccontarvi come la rete cambia la politica, come voi potete cambiare la politica con la rete. Vi assicuro che sto friggendo, letteralmente friggendo in queste ore, perché mi stanno arrivando segnalazioni, ci sono anche cose che ho trovato io in rete che riguardano la campagna elettorale per le amministrative, dei video incredibili, anche delle parodie molto divertenti che riguardano Roma, ma non solamente Roma. E sto friggendo davvero, perché ve ne vorrei parlare, vorrei raccontarvelo, vorrei far uscire qualcosa sul nostro sito, sul sito www.radio24.it, però insomma siamo in silenzio elettorale, in par condicio, quindi diventa tutto un po' più complicato, naturalmente, per chi fa come noi la trasmissione, una trasmissione naturalmente, insomma, per chi lavora in radio o in televisione, per i giornali probabilmente tutto questo è un po' più facile. Di cosa parleremo questa settimana? Beh, insomma, nella seconda parte, come sempre, parleremo con Stefano Folli di questo governo secondo Consiglio dei Ministri. Come avete visto, non è che sia emerso un granché, tranne l'accordo sullo stop al finanziamento pubblico per i partiti. Parleremo di questo con Stefano Folli e parleremo anche della situazione politica in generale. Nella seconda parte, invece, ci sarà un argomento secondo me molto interessante e molto importante. Esistono in rete già negli Stati Uniti alcuni siti che cercano di misurare l'incidenza di alcuni atteggiamenti intolleranti su internet, in particolare su Twitter, perché lo diciamo sempre, Twitter è probabilmente il mezzo di comunicazione 2.0 più facilmente misurabile, proprio per la sua struttura, per com'è fatto, per com'è strutturato. Ebbene, c'è in particolare un sito che misura il tasso di omofobia della rete. Ebbene, noi lo abbiamo fatto, o meglio, lo hanno fatto da Voices from the Blogs, che è questo progetto dell'Università Statale di Milano che ha realizzato questa indagine per noi, del quale spesso ci siamo avvalsi, che fanno un lavoro stupendo, un'analisi della rete molto efficace, basata anche appunto sull'intervento umano e non solo sugli algoritmi, proprio sul tasso di omofobia della rete. Insomma, quanto c'è su Twitter di omofobia, quanti sono i Twitter omofobi rispetto a quelli normali, a quelli neutri, a quelli di favore nei confronti dell'omosessualità. Bene, è un tema interessante, perché tanto in queste settimane si è discusso di intolleranza della rete, di volgarità della rete. Bene, è importante avere, se volete, anche un filo di misurazione di tutto questo, e poi commenteremo tutto ciò con chi è vittima dei troll omofobi. Tutto questo più avanti, prima ci fermiamo un attimo, ci ritroviamo poi con, ovviamente, Stefano Folli. Italiani! Voto Antonio, come la rete cambia la politica. Ed eccoci, cari ascoltatori, come sempre in questa seconda parte ci dedichiamo ad un'analisi politica più staccata da quella che è l'analisi della rete, e incontriamo come sempre Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. Stefano, buongiorno. Buongiorno Simone. Pare che almeno dal lato del finanziamento pubblico ai partiti ci siamo. Il Presidente del Consiglio, Enrico Letta, ha mandato un tweet alla fine del Consiglio dei Ministri dicendo, questo proprio ieri, ci siamo trovati d'accordo appunto sull'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti. È chiaramente un segnale, insomma, sempre un segnalino, però un segnale lo è, no? No, speriamo, perché questo è il paese degli annunci. Annunci fatti in buona fede, intendiamoci, ma che però poi tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, e in questo caso c'è di mezzo il Parlamento. Tu hai visto ieri quell'articolo sul Corriere della Sera in cui si dimostrava, per la penna di Sergio Rizzo, come quasi tutte le cose che vengono annunciate come tagli, riforme, eccetera, poi si arenano. Cioè, quando la gente ha letto l'annuncio pensa che la cosa sia fatta. Non è così. Poi deve tramutarsi in legge, la legge deve essere calata nei meccanismi, nei dispositivi. Insomma, c'è un lungo percorso e spesso, spesso le cose si arenano. Speriamo che la riforma del finanziamento pubblico non si areni, perché è uno dei grandi temi su cui si è verificato il distacco tra il sentimento dell'opinione pubblica e la cosiddetta casta, cioè la classe politica. Hai fatto un richiamo che mi piace molto, Stefano, perché lunedì a 9 in punto ospiteremo proprio Sergio Rizzo su questo tema. È l'occasione, certo. È l'occasione che ci abbiamo, avremo ospite Gaetano Quagliariello. Quindi, insomma, ottimo. Il ragionamento è esattamente questo, perché insomma l'idea è che spesso succeda. Del resto, da quanto tempo parliamo di riforme costituzionali, da quanto di legge elettorale, e ancora là stiamo, insomma. Per adesso, accordo sul... L'hanno chiamato porcellinum, qualcuno sì. Ha detto correggellum, perché è una correzione del porcellum, però insomma non... No, porcellinum è l'espressione più carina, più divertente. È un accordo minimo di metodo imposto dalla incombente sentenza della Corte Costituzionale, che potrebbe dichiarare illegittimo il modello elettorale attuale, quindi è pochino, veramente pochino. Però, insomma, come si dice, nella terra dei ciechi l'orbo è re. Ecco, noi siamo un po' gli orbi, e quindi accontentiamoci di questo accordo di metodo, che può essere considerato il prodromo di ulteriori intese strada facendo. L'importante è che la cornice politica di questa maggioranza regga. Se regge, si può pensare di riempirla di contenuti un passo dopo l'altro. Mi sembra che questa sia la strada che ha preferito, che ha imboccato Enrico Letta. Per il momento, insomma, ci siamo lasciati la settimana scorsa dicendo appunto che il governo aveva fatto pochino dal lato dell'economia, anche il Consiglio dei Ministri di venerdì scorso, insomma, non era stato molto fitto, insomma, al di là di quel paio di cose, la sospensione dell'IMU, il rifinanziamento parziale naturalmente della cassa integrazione. Anche qua forse il Paese si aspetta risposte un po' più rapide? Beh, il Paese sì, si aspetta un governo che riesca a fare in fretta qualche cosa per restare fedele poi alla stessa impostazione che il Presidente del Consiglio Letta ha dato, no? Il problema del lavoro, dell'occupazione, il rilancio delle imprese, insomma, restituire un po' di fiducia agli italiani. Lo scenario è quello che è stato descritto dal Presidente di Confindustria l'altro giorno, insomma, siamo davvero sull'orlo del baratro. Allora, rispetto a queste attese, che sono grandiose e sono anche giustificate dalla condizione di terribile difficoltà in cui gli italiani si trovano a vivere, ecco, sembra che il governo proceda un pochino con i piedi di piombo, però c'è il problema che mancano le risorse, manca un quadro certo su cui si può procedere, bisogna stare attenti, appunto, è come uno che cammina sul ghiaccio, ecco, sta cercando di non rompere la lastra e non finire nell'acqua gelida. Da questo punto di vista Letta è anche una garanzia di serietà e di concretezza, su questo non c'è il minimo dubbio, è un gruppo di persone di buona volontà che sostengono questo governo, il Presidente del Consiglio, i suoi ministri, il Ministro dell'Economia Saccomanni. Occorre però che questa cornice che adesso ci si preoccupa di non spezzare, via via possa dimostrarsi abbastanza solida da reggere iniziative un po' più coraggiose, perché è questo che il Paese si attende ed è questo che penso che sia giusto provare a fare, qualche cosa di più deciso, di più coraggioso, sia pure camminando un passo alla volta e semmai cominciando a correre piano piano, si comincia a correre lentamente e poi si possono fare dei passi più lunghi e più decisi. Ecco, il problema sta tutto là, no? I passi lunghi e decisi, difficili in particolare in un governo di larghe intese, insomma, no? Come quello a cui stiamo assistendo, che abbiamo visto realizzarsi tra le mani del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Devo dire, Stefano, che in passato, insomma, i tentativi come quello che fece Antonio Maccanico, si celebra in questi giorni, si ricorda in questi giorni, ad un mese dalla sua scomparsa, non furono di grandissimo successo, anzi, non andò nemmeno in porto quello. Ho partecipato proprio alla commemorazione di Antonio Maccanico l'altro giorno a Roma, alla presenza del Capo dello Stato, e ti assicuro che c'era una grande commozione, perché si ricordava un grande uomo delle istituzioni, un uomo che aveva un formidabile e fortissimo senso dello Stato e che ha davvero servito le istituzioni e il Paese con un grande disinteresse personale e una grande lucidità politica. Nel 1996, su incarico del Presidente della Repubblica di allora, tentò di formare un governo di larghe intese proprio per venire incontro a un'esigenza riformatrice che già allora c'era. Non ha funzionato, non gli fu permesso di fare questo governo. Io penso che si siano perduti 17 anni e oggi siamo un po' a quel punto. Un governo di larghe intese, di grande coalizione, il primo che si fa nell'Italia dopo i governi De Gasperi Togliatti dell'immediato dopoguerra, si giustifica se c'è una forte volontà da parte delle forze politiche contraenti di fare qualche cosa, di procedere sul piano delle riforme. Se deve essere un piccolo cabotaggio quotidiano fatto di dispetti reciproci, no? Di punture di spillo, beh, allora c'è una contraddizione di fondo. Le larghe intese servono se ci si dà un programma straordinario per un momento straordinario. Questo era anche un po' la lezione di Maccanico e io penso che noi si debba riguardare proprio al suo senso delle istituzioni per affrontare nel modo dovuto questa fase così difficile in cui ci troviamo. Noi lo possiamo fare, Stefano, ma non è detto che lo faccia il mondo politico, evidentemente. Appunto, anzi, certo. Se fossimo io e te, è vero, sarebbe diverso. Sarebbe diverso. In realtà quello che stiamo vedendo in queste ore è un po' diverso, perché le tensioni che attraversano questa nuovamente, doppiamente strana maggioranza, se vogliamo usare la metafora di Mario Monti, sono notevoli, molto forti, a partire naturalmente ancora una volta dalla questione giustizia, dalla questione Berlusconi, che da questo punto di vista incombono senza dubbio. Sì, incombono, sono oggettivamente una minaccia, però questo lo sapevamo anche dopo il 25 febbraio, dopo le elezioni, prima di formare questo governo. Sapevamo che la situazione era difficilissima, sapevamo che ci si metteva insieme fra partiti che si sono combattuti per anni e anni, senza peraltro avere delle visioni politiche, una visione del paese così distante, così ben definita. Era uno scontro di potere soprattutto. Allora è una grande coalizione fra forze molto avverse, molto lontane fra loro, però è questa la sfida. La sfida è questa: se questo scenario politico che è stato voluto dal Presidente della Repubblica non funziona, beh, ne sconteremo le conseguenze in maniera drammatica, perché non c'è al momento una maggioranza alternativa. C'è soltanto da tornare alle elezioni in una situazione ancora più confusa, in uno stato ancora di maggiore fibrillazione, e le incognite sarebbero grandissime. E questo è il punto. Quindi occorre che i partiti si rendano conto che questa fase, che potrà essere anche di media durata, non sarà una frase molto lunga, deve essere riempita di contenuti. Non si può vivacchiare, perché vivacchiare vuol dire probabilmente condannare alla morte il nostro sistema politico, e condannando il sistema politico in questo momento si condanna anche un sistema economico, un mondo economico e produttivo che è già sull'orlo dell'abisso. Comunque la prossima volta incarico a Stefano Folli, così, okay? Sì. Garante delle larghe intese. Ma non è che io ami le larghe intese. No, ma lo so, Stefano. Io vorrei un governo che riesce a tenere insieme le dinamiche di un paese che tende a lacerarsi. La lacerazione, oltretutto in un momento di così drammatica difficoltà economica, rischia di essere pagata a carissimo prezzo dagli italiani. Allora Stefano, ti voglio portare sul Movimento 5 Stelle, perché in questo momento è evidente che, pur se non con grande incisività, il governo e questa stranissima maggioranza ha il pallino in mano dell'iniziativa politica, se non altro perché è una maggioranza, insomma, molto certo, banalmente, come certo, sempre certo, succede. Certo. Questo, secondo te, in questa situazione rischia di, non dico condannare all'irrilevanza, ma comunque a ridurre molto il peso del Movimento 5 Stelle, o in realtà rischia di rafforzarlo, secondo il famoso schema questo è l'inciucio di PD e PDL e noi siamo i soli che possono salvare il paese? Guarda, l'espressione inciucio, a parte che è sgradevole, orrenda, è un'espressione lo so. Stucchevole, perché non vuol dire assolutamente niente. È chiaro che se la grande maggioranza fallisce, il Movimento 5 Stelle otterrà dei risultati. Sulle macerie del paese otterrà dei risultati particolarmente eccellenti per loro. Quindi, e non a caso Grillo predica il fallimento di questa grande maggioranza, no? Predica il fallimento del paese, lo dice, no? In autunno saremo falliti, perché soltanto su questo può pensare di riprendere il suo slancio, il suo consenso elettorale, che è grandissimo, ma che potrebbe diventare ancora più grande. Se viceversa si ottengono alcuni risultati, magari limitati, magari insoddisfacenti in parte, però che si dà il senso che c'è un passo avanti, un cammino, allora io credo che il fenomeno dei 5 Stelle è destinato a ridursi. Rimarrà comunque un fenomeno politicamente rilevante, avrà segnato comunque una pagina di storia politica del nostro paese, ma diciamo la coperta tenderà a restringersi. Per adesso siamo in bilico, loro hanno grosse difficoltà a trasformare in iniziativa politica il loro consenso elettorale. Hanno commesso anche molti errori, si sono incartati in una serie di questioni interne poco rilevanti, no? La diaria, gli scontrini, la riduzione dei compensi loro, ecco, tutte cose che insomma, dimostrano una certa difficoltà di passare dalla fase della protesta alla fase parlamentare. Però, diciamo, in prospettiva il pallino, come dicevi giustamente tu, è in mano al governo, in mano alle forze della maggioranza. Se otterranno qualche risultato, inevitabilmente Grillo sarà ridimensionato, altrimenti prepariamoci a vedere Grillo correre su una prateria e raccogliere il malessere, il disagio, a quel punto anche la profonda disillusione di molti italiani. Grazie, grazie anche per questa settimana, Stefano Folli. Grazie Simone, ciao. Buona giornata Stefano. Noi adesso ci fermiamo, ci prendiamo una pausa e poi subito dopo affronteremo un tema secondo me importante, che è quello dell'omofobia in rete. Tanto abbiamo parlato del linguaggio della rete, di come, insomma, alcuni si lamentino di quanto questo linguaggio è volgare. Bene, abbiamo, anzi, i docenti e i ricercatori di Voices from the Blogs, che ogni settimana confezionano una ricerca, questa settimana l'hanno confezionata per noi ed è proprio sull'omofobia su Twitter. E devo dirvi che il dato è abbastanza pesante. Vota Antonio, come la rete cambia la politica. Io sono uno di quelli che ancora dice frocio. Già. Sei un giovane artista maschio fra i 16 e i 23 anni? Allora sei frocio. I Boy Scout anche per gay. Ma non puoi essere leader se sei frocio. Ah, ecco, sei un frocio. Grazie, no, vai altrove. Stefano, sei una persona triste. È coglione, è forse anche frocio. E la mia stima verso di te è calata sino al nulla. Non capisco se il mio streaming è indietro. Il frocio con la maglia rossa da voi sta ancora latrando? Era una battuta, ma forse piace a te che sei acido come una checca. Era una battuta vista la scomodità che dovrebbero avere. Nulla di più. Ebbene, ebbene, come si diceva, torniamo a parlare del linguaggio della rete. Ne torniamo a parlare, avete sentito, insomma, tanto si è parlato della violenza del linguaggio della rete. Questa volta parliamo della discriminazione del linguaggio della rete. Insomma, abbiamo voluto andare a vedere un po' quanta omofobia ci fosse su internet. Abbiamo preso solo qualche esempio, qualche tweet che con la chiave di ricerca che ben potete immaginare, che non ripeto perché sono un signore, anche se vi abbiamo fatto sentire gli audio, con quella chiave di ricerca escono un po' di cose di questo genere, con una certa frequenza. Dunque, questa settimana con gli amici di Voices from the Blogs, che lo ricordiamo ancora una volta, è un bel progetto dell'Università Statale di Milano. Trovate anche il link sul nostro sito, naturalmente, che effettuano delle ricerche su internet e su Twitter in particolare. Gli abbiamo chiesto di verificare se Twitter fosse omofobo oppure no, insomma, quanto ci fosse di omofobia nella rete. Ebbene, risultati, io ho già avuto modo di vederli, sono secondo me molto interessanti. Buongiorno ad Andrea Ceron di Voices from the Blogs. Buongiorno a voi. Allora, Andrea, che cosa emerge dallo studio che avete fatto? Noi abbiamo analizzato una serie di tweet pubblicati online nel mese di maggio, in particolare tra il 15 e il 23 di maggio, e abbiamo cercato di capire quanti di questi erano omofobi, quindi contenevano un messaggio di insulto verso gli omosessuali, gay o comunque erano molto critici verso il riconoscimento dei diritti, ma in senso negativo, quindi con offese anche. E abbiamo scoperto che una buona percentuale di questi era effettivamente omofoba, quindi quasi il 30%, il 29,4% dei tweet conteneva insulti, offese, minacce di genere, a volte anche abbastanza forti verso gli omosessuali. Chiaramente questa percentuale rimane minoritaria, però è forse un segnale allarmante. Andrea, è consistente, è un terzo comunque, è abbastanza elevato. Nello scandagliare questi tweet vi siete anche fatti un'idea appunto delle ragioni? Sì, ci sono una serie di categorie principali che insomma ci aiutano a capire quali sono i tipi di offese che vengono fatte in rete, e quella che è stata maggioritaria, quasi un tweet omofobo su due, dice che insomma essere omosessuali è un danno perché confonde la distinzione tra i sessi, c'è un po' in questo senso l'idea di macismo, quindi sei omosessuale per cui non sei abbastanza uomo, fa venire meno la differenza tra uomo e donna, sei debole, sei una femminuccia in un certo senso, è questo il messaggio che passa principalmente. Poi ci sono altre offese legate all'aspetto religioso, se vogliamo, quindi si dice che l'omosessualità è un peccato contro la morale, contro Dio, perché nella Bibbia non si parla di omosessualità, comunque se ne parla in senso negativo. E poi ci sono invece più meritari, alcuni temi più specifici, alcuni che dicono è un danno alla natalità, se tutti fossero omosessuali ci estingueremmo, non nascono più bambini, eccetera, eccetera, e basta così il 6%, mentre un 3,5% addirittura dice che è una malattia, insomma qualcosa che avrebbe curato, insomma, dal punto di vista medico. Quindi c'è anche una percentuale ancora convinta di questo, anche se appunto parliamo del 3,5% solamente, sì, dei tweet analizzati, e tra l'altro ricordiamolo, di chi decide di esprimersi sull'argomento, quindi no, una nota che va fatta chiaramente è che parliamo di chi decide di esprimersi sull'argomento, e ovviamente non è uno scandagliare l'intero mondo dei tweet, perché da questo punto di vista sarebbe impossibile, probabilmente anche inutile. Ti voglio portare adesso invece sulla questione del riconoscimento, di quello che viene definito il riconoscimento dei diritti per le coppie omosessuali. Quindi da una parte il matrimonio, più che altro l'unione, il riconoscimento civile, giuridico delle coppie omosessuali, e dall'altra parte la questione delle adozioni. Come si pone Twitter da questo punto di vista? Diciamo anche sulla scia della legislazione approvata più recentemente in Francia, quindi che consente matrimoni gay, e anche sull'onda del primo matrimonio gay, comunque della prima unione civile che è avvenuta a Roma nei giorni scorsi, la rete sembra esprimersi in modo favorevole, quindi c'è una quota elevata, il 46%, molto vicina alla maggioranza assoluta, diciamo, che è favorevole quindi a riconoscere le coppie omosessuali, sembra in questo senso che la rete sia aperta e pronta per fare questo passo. La quota di contrari rimane abbastanza rilevante ed è sempre un 30%, un dato abbastanza vicino a quello che poi è quello di chi si esprime utilizzando linguaggio omofobo. Dall'altro lato, dal lato del riconoscimento appunto della possibilità di adozione, le percentuali scendono in maniera drastica. Sì, c'è una netta differenza, nel senso che solo una piccola minoranza, un 7% scarso, è favorevole o comunque si esprime in modo esplicito a favore dell'adozione gay, più forte la percentuale di chi invece esplicitamente mostra opposizione, quindi c'è un 25% che dice no, assolutamente no, sarebbe sbagliato per varie ragioni che insomma vengono già citate quando si parla di questo tema, per cui sarebbe un danno per la famiglia, eccetera, eccetera. La cosa interessante è che comunque su questo tema viene percepito forse come fuori dall'agenda, per cui molti addirittura non si esprimono del tutto, quindi parlano sì di omosessuali, ma non arrivano nemmeno a parlare di adozioni gay, perché lo vedono forse come una cosa prematura, comunque fuori dall'agenda politica del momento. Bene, grazie ad Andrea Ceron per averci chiarito il punto, aver fatto un punto sui numeri. Adesso andiamo su quella che è l'esperienza concreta con chi ha a che fare, con chi sta sui social network e ha a che fare quotidianamente con tutto questo, con questo 30%, e chissà se sono di più in quello che si percepisce realmente, insomma, sul terreno, sul campo, anche se parliamo della rete, chissà se sembrano di più. Anna Paola Concia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Una bella interessante ricerca, sì. Io in questi cinque anni in cui ho fatto la parlamentare, in cui ho lavorato moltissimo sulla rete e continuo a farlo, naturalmente ho preso una quantità di insulti omofobi pazzesche, ci vogliono le spalle larghe per sopportarli, e questo mi succede più o meno quotidianamente, più o meno quotidianamente. Nonostante tu non sia più parlamentare per quello che rappresenti, sì. per il fatto di essere sposata con una donna, continua ad arrivare tutto questo. Sì, io ho molto lavorato per comunicare all'Italia in rete, fuori dalla rete, la normalità, la naturalità dell'omosessualità. Mi sono molto esposta anche col mio corpo, diciamo, no? E quindi sì, sicuramente sono un punto di riferimento negativo e per fortuna anche positivo, però. Sì, l'ultima volta, cioè, quando io un giorno ho messo la foto mia di Riccarda, un paio di mesi fa, un mese e mezzo fa, sia su Facebook che su Twitter, proprio si è scatenato, ogni tanto tornano, nel senso che quando tornano che vedono la foto, gli insulti omofobi molto pesanti. Ecco, io non, come dire, non è che vogliamo andare a scavare. Non chiedo la censura, però io. Non voglio andare a scavare nel torbido, per carità, però per dare la misura anche ai nostri ascoltatori del livello di quello che ti arriva, riesci a portarci qualche esempio, qualcosa che ti ha colpito in particolare? Ma sai, brutta lesbica, schifo, questa è una, diciamo, mi fai schifo, quando dicono che le cose che mi irrita moltissimo è quando dice chi fa il maschio tra le due, devo dire che mi irrita particolarmente. Poi sei malata, naturalmente mi irrita moltissimo. E però sono 99% uomini che fanno queste affermazioni, e quindi andiamo incontro a quello che la ricerca diceva, e cioè che l'omofobia è molto legata al machismo, c'è una relazione molto stretta tra questo, sì. Sia contro gli uomini omosessuali, contro i gay, che contro le lesbiche. Questo è un dato di realtà vero, allora la corrisponde alla mia esperienza. Allora noi adesso ci fermiamo un attimo, ci prendiamo una pausa per la viabilità, e poi ti voglio risentire più in generale, proprio da persona che frequenta la rete naturalmente e che è stata in politica, più in generale su questa questione del linguaggio della rete, perché abbiamo parlato molto di omofobia nei giorni scorsi, nelle settimane scorse si è parlato molto di linguaggio violento nei confronti delle donne da una parte, con il caso di Laura Boldrini, e dall'altra parte di linguaggio razzista nei confronti del ministro Kyenge, forse addirittura più palpabile forse per certi aspetti di quello che riguarda gli omosessuali, naturalmente, perché se vogliamo c'è anche qualcuno con ruoli istituzionali o semi-istituzionali, no, che sul razzismo va molto pesante e appunto, insomma, molto in modo esecrabile. Voto Antonio, italiani! Voto Antonio, come la rete cambia la politica. Come mai non lo sai cosa sei, sei diverso da noi, ma che vuoi, sono gay, fatti miei. Che disturbo ne hai, quale enorme disagio ne trai, sono gay, sì sono gay, non sono gay. Ma vorrei, ma lo sai, quanti geni d'eroi sono gay, non lo sai. O lo vuoi ricordare, preferisci pensare che un gay sia una sorta di errore, una cosa immorale, o al caso migliore, un giullare fenomeno dal balcone. E lo tollererai su un quanto eccezione, lo tollererai su un televisione, lo chiamano gay. E tu pensi Ricchione. È il mitico Daniele Silvestri in un'escalation, se vogliamo, classica in tema di omofobia, un modo di stigmatizzarla anche, no? Quelli che dicono gay e fanno i politically correct e poi pensano Ricchione, magari proprio in rete si scatenano. Allora, Anna Paola Concia, più in generale, appunto, sull'argomento, no, di questa violenza della rete della quale si parla, di questa violenza del linguaggio, vorrei capire come la vedi. Ma guarda, sì, oggettivamente in rete il linguaggio è molto più violento, e progressivamente, devo dire, frequentandola assiduamente, quotidianamente da anni, mi rendo conto che questa violenza sulla rete è aumentata. Dopodiché io penso che ci siano le leggi, ma quindi diciamo bisogna semplicemente ricorrere alle leggi che ci sono. Certo, gente come me, io ogni tanto dico, non è che posso passare la giornata con la polizia postale a me mi conosce benissimo, perché gli anni che ero parlamentare minacce ne ho avute tantissime, e quindi sono dovuta ricorrere molte volte a loro. Comunque la polizia postale si sta specializzando, sono molto bravi, stanno incrementando insomma i sistemi per bloccare le pagine, piuttosto che per bloccare chi usa un linguaggio violentissimo, a me è capitato molte volte. Dopodiché credo che vada fatto un lavoro culturale, anche se se può sembrare strano. Insomma, io non sono dell'avviso che soltanto con la repressione si sconfigga questo linguaggio, che è un linguaggio evidentemente in qualche modo ovviamente alimentato dall'anonimato, dal fatto che appunto che ci si sente impuniti. Questo riguarda sia l'omofobia che la misoginia e il disprezzo per le donne, che è un argomento molto diffuso nella rete, e il razzismo, che fanno tutti parte, diciamo, di una cultura è una stessa matrice. Una matrice, io sostengo che sia una matrice comune, che è anche legata appunto dicevamo all'anonimato, ma anche a questo tempo di grande crisi, di crisi economica, in cui si accentua il disprezzo e l'odio verso chi è diverso, chi in qualche modo viene percepito come meno forte nella società, e questo è aumentato, per cui è diciamo a questo livello che bisogna agire. In questo periodo c'è stata la vicenda orrenda, insomma quella del ministro Chienge, che è stata sottoposta a grandi a insulti terrificanti. Ma a questo proposito voglio dire una cosa: c'è un problema di rappresentanti delle istituzioni che usano questo linguaggio, attenzione, lo usano nei confronti degli omosessuali, lo usano nei confronti delle persone di un altro colore della pelle, e sono sempre rimasti impuniti. La vicenda di Borghezio, che è stato censurato dall'Europa, Borghezio, che è un rappresentante italiano in Europa, non è stato altrettanto censurato nel nostro paese dalle istituzioni. Questo io molte volte lo dicevo a Fini nella scorsa legislatura, l'ho detto pubblicamente anche alla Presidente Boldrini: attenzione, le istituzioni, oltre a fare le leggi, che non abbiamo una legge contro l'omofobia e la transfobia, ma contro il razzismo sì, devono assolutamente censurare i rappresentanti delle istituzioni, che sono degli esempi per i cittadini. Ma se un rappresentante delle istituzioni si permette di insultare, disprezzare, odiare una persona di un altro colore della pelle o un omosessuale, ma c'è un'autorizzazione sociale ai cittadini a fare altrettanto. Sì. In altri paesi questo non succede. Sì, sì, a questo aggiungiamo, vogliamo una sorta di liberazione dai freni inibitori che la rete dà per certi aspetti, no? Intendo questo, no? Come nell'escalation della canzone di Silvestri, a quel punto pensi quella cosa là e poi però, dato che ti trovi in rete, potremmo proseguire, la scrivi. Sì, assolutamente, c'è una liberazione dei freni inibitori. E però chi come noi sta nella rete e considera la rete una grande opportunità, un grande elemento di democrazia, deve far capire che stare nella rete è come stare fuori dalla rete. Quindi ci vogliono delle regole, come ci vogliono fuori dalla rete, le regole ci vogliono anche dentro la rete. Le regole ci sono, bisogna farle applicare, le regole anche di civiltà bisogna far applicare nella rete. Ecco perché io non distingo la rete dal dentro a fuori, so che è uno strumento diverso, è più facile, per cui si può, è più facile, quindi agevola molte cose, anche perché sulla rete ci sono state, è servita anche a processi democratici molto importanti, alla diffusione di democrazia, ma ci sono anche questi elementi, per cui io tendo a pensare la rete come, come la società. La rete non è una prosecuzione, una prosecuzione della realtà, una prosecuzione della realtà. La rete è uno strumento che noi utilizziamo. Anna Paola, io ti devo interrompere purtroppo, starei a chiacchierare ancora con te per molto, però purtroppo abbiamo esaurito il tempo, però insomma mi sembra che insomma, le cose importanti le abbiamo dette. Un ringraziamento a Carmelo Lauricella in regia, a tutti voi per l'ascolto, mi trovate su Twitter se volete Simone Spezia, trovate anche Anna Paola Concia naturalmente, esattamente con nome e cognome, ma per favore insomma trattatemela bene, ecco, se posso dirlo, se posso permettermi. C'è anche la nostra pagina Facebook se volete. Noi ci sentiamo lunedì con 9 in punto.